della guerra. Non fermerà questo disastro dell'umanità. La vita e la morte giocheranno una partita micidiale, sai, una partita micidiale. Di questa guerra rimarrà una solitudine. Donna e bambino non lo sanno, wow. Che